giorni che non sei più vicino a me, notti che si ricordano di te, ora ricordo ancora sul viso tuo la mia felicità. Mesi che non sei più vicino a me, gente che viene passa e se ne va, gente che non sa niente della mia vita quando eri con me. Anni che non sei più vicino a me, ora ho un'altra vita accanto a me, ora il tuo ricordo, solo un sorriso è rimasto per me. Cosa importa se un giorno io ti ho amato, se sei stata per me tutta la vita, se ho creduto un giorno di impazzire soltanto perché tu andavi via da me. Ora che non sei più vicino a me, tutto continua anche senza te. Ora ho un'altra vita, un altro amore è nato per me. Ed ora non sei che un ricordo d'amore. Ora ho un'altra vita, un altro amore è nato per me.